Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati, Enzo Argante, il traghettatore. Sono stati resi noti i risultati di una ricerca del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che aveva un obiettivo, quello di capire qual è la diffusione della responsabilità sociale d'impresa presso le regioni e le province autonome. Al sondaggio non hanno proprio risposto tutti quelli chiamati in causa, ma solo 15 enti, quanto basta però per dedurre che il maggiore impegno da parte di questi enti nel campo della responsabilità sociale d'impresa viene dedicato alla salute e alla sicurezza del lavoro, il 78,3% di questi impegno, e della conciliazione famiglia-lavoro quasi il 70% delle iniziative. È stato consegnato ieri mattina l'ambito premio Impresa Ambiente, che è la porta d'accesso all'European Business Award dell'ambiente europeo. Consegnata a Roma, alla Fiera di Roma, nell'ambito di Ecopolis, si spiega che cos'è il premio e soprattutto chi l'ha vinto, il coordinatore nazionale Giuseppe Tripaldi. Grazie a te per averci chiamato per illustrare questa iniziativa. Ieri abbiamo consegnato i riconoscimenti del premio Impresa Ambiente, quattro le categorie: nella gestione, il processo, il prodotto, la cooperazione internazionale, e poi c'è una categoria a parte che diamo al giovane imprenditore che si applica in modo particolare sulle tematiche ambientali. Bene, quali sono le aziende che hanno vinto il premio Impresa Ambiente quest'anno? Nella categoria gestione è la Abbott, che è una ben conosciuta azienda farmaceutica, che ha integrato nella gestione aziendale tutte le tematiche ambientali e di responsabilità sociale di impresa, con una particolare cura per i rapporti con la comunità del territorio. Nella categoria processo e tecnologia ha vinto la IRB di Altavilla Vicentina, appunto in provincia di Vicenza, che ha messo a punto un processo per estrarre elementi essenziali per l'uso cosmetico, alimentare e veterinario, utilizzando pochissime sostanze vegetali. Bene, andiamo velocemente avanti, il tempo stringe. Sì. La terza categoria è il prodotto, ha vinto SRL con una microfibra sintetica che ricicla bottiglie di plastica e tessuti sintetici. Per la cooperazione internazionale ha vinto Terna, che fa insieme a una cooperativa in Bolivia, ha messo in piedi un sistema di manutenzione di linee elettriche. Il giovane imprenditore Giovanni Mezzelani di Ancona, che ha lasciato il suo lavoro in una multinazionale per dedicarsi a un progetto ambientale. Grazie e bocca al lupo e complimenti per l'iniziativa. C'è ancora una ricerca in conclusione di questa puntata di Ferry Boat, questa volta riguarda i bambini e i nuovi media, è un argomento di grandissima attualità ma anche di grandissima delicatezza. La ricerca è stata condotta da People in collaborazione con Ter de Somme Italia Onlus e ha un obiettivo, quello di dimostrare che solo il 18% ha raggiunto un obiettivo, quello di dimostrare che solo il 18% dei genitori è a suo agio quando si parla del rapporto fra i figli e i nuovi media. Per questo Vodafone ha intrapreso un'iniziativa, un sito, si chiama infamiglia.vodafone.it, dove genitori ma anche nonni potranno trovare tutte le informazioni per conoscere e utilizzare al meglio le nuove tecnologie ma anche il telefono cellulare. Questo spazio in famiglia è uno spazio aperto anche, perché no, a domande e a risposte di chi ha dei dubbi e vuole entrare nel merito di questo delicato rapporto. È tutto per questa puntata del weekend. Scriveteci a ferryboat@radio24.it per le vostre proposte. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Carmelo Lauricella in regia.